diciamo che l'amicizia è stata un po' la causa per cui ci siamo trovati a suonare, quindi chiaramente l'abbiamo mantenuta per sempre, insomma, questa cosa. Qual è stato il percorso, Dario, dal 1977 adesso, al 2010, questo nuovo album, che è un album assolutamente ecologico, tra parentesi? Sì, abbiamo voluto farlo. Innanzitutto, dobbiamo anche dirlo, l'ecologia è anche frutto di macchinazioni economiche, cioè, ovvero abbiamo scoperto che cercando di farlo ecologicamente andavamo anche a risparmiare, e quindi ecco. Questa mi sembrava anche una cosa saggia, insomma, no? E Sergio sta guardando il libretto adesso, sta vedendo. Sì, abbiamo voluto fare questa cosa chiaramente con l'aiuto di tutti, ma soprattutto con le spinte nuove che sono arrivati con gli ultimi inserimenti nel gruppo, no? Perché tu si sa che quando si è da tanto tempo insieme c'è sempre bisogno di linfa nuova, di idee nuove, di spunti nuovi. L'arrivo di persone nel gruppo nuove, giovani, interessate, ci ha motivato sempre di più, e abbiamo voluto farlo da soli, insomma, ecco, proprio nella nostra cantina. Certamente. Quindi anche questo ci ha fatto molto, ci fa molto piacere il fatto di averlo realizzato tutto noi. E questo vi fa andare avanti sempre di più, secondo me. Questo rinnovo, questa gente nuova che viene, che entra, certo, nella band. Sì. Un po' la passione. E soprattutto credo, dopo magari quando parlerà qualcun altro lo potrà confermare o smentire, ma comunque credo che comunque la linea di fondo del rapporto amicale, e quindi non esclusivamente professionistico, no? Cioè il fatto di fare musica per fare musica e basta, ci aiuti molto di più. Cioè abbiamo visto gruppi che si sono sfasciati, insomma, nel giro di qualche anno, ecco, mentre tutto sommato questa dimensione mantiene e sostiene certe dinamiche, ecco. Poi, con tutte le storie che attraversano i gruppi, perché anche certo, noi certo. In 30 anni possiamo girare un altro film, insomma, ecco. Tu hai detto in una recente intervista o sì, qualcosa di quel genere: suonavamo sui gradini delle chiese le tamuriate, le pizziche. E poi c'è stato un innamoramento, proprio, almeno questa è la mia esperienza. Poi magari Duilio, che anche lui fa parte della vecchia generazione, come si suol dire, può confermare. Comunque c'è stato un innamoramento attraverso una canzone riportata da un nostro amico che faceva il beat, era in giro con il sacopelo e la chitarra, e tornando da un viaggio dalla Francia, dalla Bretagna, ci ha fatto sentire per caso una sera una canzone durante, così stavamo facendo le prove, mi fa: ascoltate questo pezzo, no? E ha suonato questa, con la sua chitarra ha cantato questa canzone bretone, e noi siamo rimasti, ci è caduta proprio la mascella, perché dico: ma cos'è questa cosa, no? Cioè, fondamentalmente era musica che per gli anni 70 in Italia si ascoltava poco, comunque era abbastanza sconosciuta. E fa: questa è una canzone, un'antica canzone bretone, me l'ha insegnata la mia ragazza, di là, insomma, morale della storia, che poi in estate siamo partiti tutti quelli che c'erano, siamo andati a fare un giro in Bretagna, Irlanda, e lì ci siamo praticamente innamorati, ecco, proprio, è stato innamoramento puro, ecco, proprio il colpo di fulmine, come si suol dire. Io ricordo molti anni fa un concerto storico di Alan Stivell a Stra, che è in provincia di Venezia, in un parco enorme, tutti seduti per terra. È una cosa favolosa, sì, beh, lui è stato il primo, diciamo, alfiere della musica, quello che si ricorda ai tempi è lui, insomma, che l'ha un po' promossa. Poi lui è un grande musicista e anche un grande cultore sia della musica che dell'arpa, e quindi effettivamente anche noi l'abbiamo visto sia in Bretagna che in Italia, via andare, insomma. Sì, è vero, da lì siamo partiti, siamo stati nei pub, abbiamo sentito i vecchi suonare, sai, capito, quelle cose che per noi era tutta cosa nuova. Abbiamo vissuto qualche giorno, qualche settimana nell'Irlanda del Nord, e lì abbiamo incontrato anche tutto il discorso sociale, politico, no? Perché purtroppo questa terra è sempre stata attraversata da problematiche molto forti, molto pesanti, e anche questo è un po' così, erano gli anni in cui queste cose qui, insomma, scatenavano anche l'interesse, la passione, la voglia di dire delle cose, di fare delle cose, e questo ha aiutato. Sei album, Dario, di cui due esauriti, mi pare di aver letto. No, tutti. Ah, tutti esauriti, perfetto, bellissimo. Tutti esauriti anche complimenti. Perché, no, anche perché ti spiego, noi abbiamo sempre cercato, cioè in realtà non facendolo di mestiere, di professione, no? Non facendo il mestiere così, la nostra produzione è sempre stata una produzione, un'autoproduzione, non ci siamo mai legati a nessuna casa in particolare di distribuzione, abbiamo sempre cercato, e quindi le tirature erano le classiche tirature da 1000 dischi, 1000 CD per volta, insomma, ecco. Però, diciamo, nei nostri giri, nei nostri concerti, un po' gli amici, un po' le cose, insomma, li abbiamo esaurito. E tutti ci richiedevano la ristampa. Allora a questo punto abbiamo detto, nell'ultimo, abbiamo detto: senti, facciamo un regalo a tutta la gente che ci chiede, noi senz'altro non abbiamo la forza per poterli ristampare tutti. Diamo una password, un codice nell'ultimo disco, che chi prende l'ultimo disco si può scaricare gratuitamente tutte le altre canzoni degli altri dischi, insomma. Questo ci sembrava bello, dopo tutto questa vita che abbiamo fatto, dico, regaliamogli queste cose, insomma. D'altronde la musica va fatta anche per così, per distribuire, per regalare. Certo. Assieme a Duilio voi siete le voci portanti, il collegamento di tutti gli altri. Sì, siamo le voci, ma da quando Duilio si è sposato con Lila è diventata anche lei la voce portante, perché anche il suo arrivo, come dicevo, di tante altre persone ha praticamente, cioè adesso siamo già una vettura che va a otto marce, insomma, capito? Non abbiamo più le quattro marce più a retro che avevamo prima. Quindi è diventata anche Lila. In più Lila, dopo magari se volete. Certamente, abbiamo un tempo fino alle 10:30, bene, quindi vai, non ci sono problemi. Lei, perché lei oltre a cantare, suonare, compone. E quindi, sai, il fatto di scrivere, il fatto di fare cose proprie, è un motivo in più, no? Chiaro, infatti, chiaro, chiarissimo. Le idee ci sono anche su questo, insomma. Però siamo molto contenti, ecco. Decisamente. Io e Sergio abbiamo deciso di iniziare con la traccia numero 3, che è un po' rocchettara, tra virgolette, vorrei dire sempre tra virgolette. Sempre. Ascolta, la traccia numero 3 che è in questo The momento... The Lowlands of Holland. Ecco, Lowlands of Holland. È leggermente più ritmata, con una bella chitarra iniziale. Infatti è interpretata da Lila questa. Ottimo. Parliamo con Lila allora. Ok. Benissimo. Vuoi che te la passo? Sì, un secondo, così sentiamo l'interpretazione sua. Certo. Sono un otto, Sergio, quindi devono passarsi il telefono. Devono passarsi il telefono. Pronto? Pronto, Lila, ciao. Sì, ciao, sentiamo di niente. No, dicevo a Sergio, siete in otto o in sei in questo momento, dovete passarvi il telefono, c'è poco da fare. Sì, c'è stato un passaggio di consegna di testimone. No, dicevo, questo, abbiamo scelto la traccia numero 3, The Lowlands of Holland, perché è una bella traccia ritmata, decisamente mossa nel senso positivo del termine. Sì, poi fra l'altro la traccia tradizionale sarebbe molto più lenta, però io l'ho sempre voluta interpretare così, anche perché per il testo che ha, perché parla di una ragazza caparbia che non ha intenzione di cambiare marito solo perché il marito è andato in guerra, ecco, una storia un po' complessa, un po' particolare, e mi dispiaceva farla così molto triste. In realtà lei non è affatto triste, lei è estremamente caparbia e davvero vuole far valere le sue idee, come è giusto che sia, e quindi abbiamo voluto velocizzare. Poi c'è stato l'arrangiamento da parte di tutto il gruppo e è venuta fuori una bella cosa. Decisamente una bella cosa, adesso la sentiamo assieme. Blu Radio Sera. That he was married and on me marriage bed. I came aboard, she came chain and he stood at my bed. Saying, arise, arise, young wedded man, and loss there are no for me. Since those high winds and the stormy seas are between my love and il Veneto come non l'hai mai sentito. Blu Radio Sera. Allora Maurizio, continuiamo questa chiacchierata con i Polver Folk. Decisamente, loro ci sono, stanno aspettando nella loro casa. Sono in 7 o in 6? Sempre in 6 siete? Sì, abbiamo siamo ancora in 6. Stiamo aspettando il maestro di yoga, che non sappiamo se esce dal Nirvana. Dicono che non esce dal Nirvana stasera, ho capito. Ma come? No, ci avevo una lezione importante, ha detto. Benissimo. Sei Dario? Sì, sono ancora io. Perfetto. Sì, io però passo pure volentieri la palla. Non come vuoi problema. Te, non c'è problema per me. Sì. Dalle chiese alle grandi piazze, Dario. Sì, dalle chiese alle grandi piazze, sì. La chiesa era semplicemente, i gradini della chiesa, certo, era semplicemente un luogo di ritrovo, quindi chiaro, era l'unico modo dove non pagavi niente e potevi, potevi suonare. E potevi ancora suonare qualche cosa, ecco, così per la, così per passare la serata, via. Certo, sì. Le tammuriate. Perché le tammuriate, Dario? Perché c'aveva molto. In realtà non era musica delle nostre parti, era una musica che veniva dal sud, era una musica nuova per noi, era una musica che ci piaceva per come era stata arrangiata da alcuni gruppi, non so, cito la Nuova Compagnia di, certo, Canto Popolare, musica nuova, insomma così. E ci piaceva questa sonorità, questo modo di usare le voci, questo modo di usare anche degli strumenti che tutto sommato, sai, mandolini, mandole, cose un po' particolari. E così abbiamo iniziato a farla, ritmo e voci, perché bene o male ognuno di noi ci piazzava qualcosa di suo, chi veniva dal coro dell'oratorio, chi veniva da gruppi rock, chi, insomma ognuno ci metteva del suo e via, siamo andati avanti così, fino all'innamoramento, come dicevo prima. Sì, totale, sulle vie di Damasco praticamente. Esatto, sì. Vi siete innamorati perdutamente della musica irlandese, e sì, non sì, soltanto della musica irlandese, della, no, musica celtica, possiamo dire questo? Sì, anche se come dice Augusto, che poi vi passo perché è, sì, il nostro teorico del gruppo, il nostro maestro, perfetto, guru musicale, poi dopo magari sulla musica qualcosa di più lui può dire, io sono uno che va a spanne, ecco, su questa cosa, vado più col cuore che con l'orecchio, come dice lui ogni tanto. Sì. Scozia, anche perché l'arrivo, sì, di Roberto nel gruppo ha determinato anche la diciamo il fatto di suonare la cornamusa scozzese, è chiaro che ti porta anche a un certo tipo di sonorità, e no, che la diversità un po' tra la cornamusa scozzese e la cornamusa irlandese ti porta a una sonorità più vicina alla Scozia, chiaramente, e poi anche come panorama abbiamo, cioè ci sentivamo vicini a questa cosa qui e abbiamo fatto anche quello. Niente, insomma, sai, Roberto è stato per noi, l'arrivo della cornamusa è stato comunque la vita di un gruppo, del nostro gruppo è stata fatta di step e di colpi di fulmine, l'arrivo della cornamusa è stato un altro colpo di fulmine, perché non eravamo abituati a uno strumento così, e poi è determinante, come dopo l'Augusto vi spiega, cioè noi dobbiamo fare quello che dice lei, e quella è lei, insomma, non possiamo lei fare. Che parte, che trascina. È lei che comanda, e quindi è un cucciolo, è un essere vivente la cornamusa, capito? Cioè sente il tempo, se è umida fa una roba, se è secco ne fa un'altra, quindi niente, tutto quello che dice lei noi lo facciamo, soprattutto in live, insomma, in concerto. E con il pubblico, che impatto ha avuto la cornamusa nel pubblico? Sì, diciamo che tutto sommato nei primi tempi eravamo anche pochi a suonare questo tipo di strumento, no? Poi dopo man mano si sono stati introdotti, sono nati tanti gruppi, si è un po' diffusa, c'è stato un po' un periodo poi del business pazzesco, no? Dove insomma, il celtico tirava, a parte non vogliamo neanche entrare nella polemica di usare la parola celtica anche per altri scopi, comunque voglio dire l'arrivo suo è stato determinante e anche un impatto anche visivo, sai, e anche sonoro, perché certo. quando suona lei, io non so quanti erano, poi Roberto mi conferma, ma credo che tre guidassero un battaglione, un esercito ai tempi, ne bastavano solo tre, non è che ce ne volessero tre, non bastava uno, ha detto, ecco. Bastava uno, però uno quello giusto praticamente. Quindi per dire la potenza e l'importanza di uno strumento così, comunque. Ma la cornamusa ha anche una presenza scenica non da poco, secondo me sul pubblico prende molto. Sì, è vero. Poi Roberto, che come figura, in radio chiaramente non si vede, ma come figura è tutt'altro che uno scozzese, no? è un ingegnere Roberto, fondamentalmente lui è un ingegnere, quindi la figura dell'ingegnere che usa la testa, ma quando soffia nella cornamusa diventa un Highlander, cioè, sul serio. Diventa uno scozzese al 100%. Al 100%, sì. Perfetto. Senti. Dario, come viene costruito, come si crea un pezzo dei Power Folk? Guarda, un pezzo dei Power Folk, io ti passerei l'Augusto. Ecco, passami Augusto, dai. Sì, allora, ecco, ti passo l'Augusto, che è quello che può, da un punto di vista tecnico, spiegarti anche. Dunque, innanzitutto parte dal cuore, poi dopo ci vuole il resto. Adesso ti passo l'Augusto. Bene. Dai. Vai. Come nasce un pezzo dei Power Folk? Pronto? Ciao Augusto. Ciao, sono Augusto, ciao. Allora, come nasce, come si sviluppa l'idea di un pezzo vostro? Ma abbiamo diversi step. Diciamo che nell'ultimo CD c'è un unico brano originale, ma alla fine gli step per arrivare ad un arrangiamento sono molto simili. Uno di noi propone una melodia, per esempio, e poi cerchiamo tutti insieme di dare un contributo, ognuno con il proprio strumento. In questo caso magari adesso io ho un po' un ruolo di coordinamento, magari decido che sarebbe più bello sentire il buzzuki piuttosto che due chitarre, o il mandolino che raddoppia la cornamusa piuttosto che un'altra cosa, però insomma questa è la visione generale. Oppure, come è successo per Sunflower, Lila è partita a fare un arpeggio su cui si è innestata una melodia improvvisata di Adalberto, e poi su un altro arpeggio, che poi è tutta la prima parte del brano Sunflowers, invece Roberto ha pensato a una melodia che ha delle radici molto profonde nel modo di scrivere per cornamusa scozzese, ma è una melodia interamente originale, cioè non tradizionale, ma pensata appunto da Roberto, sì, che comunque. E dopo lì, insomma, l'arrangiamento è venuto dal suonare e dal pensare, in questo caso, certo. Visto che ci siamo, Augusto, li possiamo citare tutti i componenti della band? Allora, i componenti della band sono appunto Dario Cecchin, che canta e suona il Boran dal vivo, Duilio Gardolino, che sono gli elementi, diciamo, più che sono fondatori del gruppo. Duilio suona la chitarra, il buzzuki e canta. Dopodiché abbiamo Roberto Rainaldi, che suona la cornamusa delle Island, Lila Madrigali, che canta e suona la chitarra, Daniele, che suona le percussioni e negli spettacoli dal vivo si esibisce anche nelle danze tradizionali irlandesi, di cui è peraltro campione mondiale in moltissime specialità. Abbiamo Adalberto Zappalà, che suona un po' qualunque tipo di strumento a corda tu gli possa mettere, un maestro di sitar, ma suona la chitarra, suona il basso, suona il mandolino, insomma suona qualunque strumento a corda gli venga messo in mano. E poi ci sono io, che suono diversi tipi di flauti, il basso, e aiuto magari il Daniele nelle percussioni quando lui è impegnato nelle danze. Bello, bellissimo in ogni caso, bellissimo, molto positivo. Tutti hanno un ruolo particolare per fare un discorso come Sunflowers, praticamente. Sì, sì, assolutamente. Diciamo che i ruoli nel gruppo sono molto anche suddivisi. Ah, volevo citare l'ultimo elemento della band, che magari è quello sempre più sottovalutato, che è Vittorio Mazzola, che è stato l'ultimo acquisto ed è il fonico, l'ingegnere del suono del gruppo, che è stato veramente determinante per la produzione del disco e spesso anche per i nostri spettacoli. E poi la Loredana, esatto, che balla, non è mai presente, diciamo, non è presente nel disco, perché la sua presenza è negli spettacoli, perché è la compagna di danza di Daniele. Dicevo, per quanto riguarda i ruoli, si sono suddivisi molto. La parte, diciamo, amministrativa, eccetera, la fa il Dario, sono più magari sulla ricerca del repertorio, così come anche Duilio e Lila compone brani, una facilità estrema nello scrivere brani originali, e per cui insomma diciamo che ci siamo proprio molto suddivisi anche proprio come specificità all'interno del gruppo. Certo, certo. Noi abbiamo scelto adesso la traccia numero 4, che adesso non ricordo, adesso Sergio me la dice, perché non ricordo il titolo, l'ho scritto male. When I Was a Fair Maid. When I Was a Fair Maid. Esattamente. Sì. Un'altra traccia molto bella, secondo me, perché in questo disco c'è la musica celtica, tra virgolette, sempre tra virgolette, ma ci sono anche delle influenze un po' diverse. Non so se sei d'accordo, Augusto. Sì, allora a me non piace purtroppo parlare di musica celtica. A 360 gradi, se mi è consentito. Sì, esatto. Diciamo che sono musiche folcloriche del nord. Ecco, Europa. Esatto. Musica folclorica. Ma è una ballata, ed è, peraltro, per me è un... per me ha anche un valore affettivo particolare, perché è il primo brano che Duilio mi ha insegnato quando sono entrato in Polver Folk 14 anni fa. E sono tipo il penultimo a essere entrato in Polver Folk. Nella rete. Sì. Sì, è un brano poi che sembra, appartiene alla tradizione, ma sembra costruito su misura per la voce di Dario, che riesce a interpretarla in una maniera magistrale nel disco, ma soprattutto dal vivo. Soprattutto quando tenta di tradurre il testo, sarebbe interessante poter avere delle registrazioni live di quando Dario spiega il testo di questa bellissima canzone. Devo dirti una cosa, Augusto, recentemente ho detto anche a Sergio, prima di cominciare il collegamento, è venuto un ragazzo che vive sempre da molto tempo in Irlanda, ha detto: che bella pronuncia hanno questi signori, questi musicisti, ma sono italiani, sono italianissimi, non sembra, ha detto lui. Questo, guarda, è una cosa che ci conforta. Diciamo che Lila, che è quella che padroneggia meglio di tutti la lingua inglese, lei ha vissuto anche in Irlanda, ci aiuta molto comunque nel correggere le parole. Poi devo dire che anche Roberto, soprattutto sui brani scozzesi, dove il dialetto scozzese ha delle pronunce peculiari e anche, diciamo, diverse dall'inglese standard o dall'irlandese, anche Roberto certe volte ci aiuta a puntualizzare. Ci siamo anche fatti aiutare da un madrelingua bretone per Fanarchist, certo, che invece è cantato in bretone, che è una lingua gaelica, che nulla ha a che vedere con il gaelico irlandese o scozzese. Ok, sentiamo il pezzo allora adesso. Va bene. E invece, Maurizio, ti stoppo un attimo, facciamo 30 secondi di pausa e poi sentiamo la canzone dei Polver Folk. Sono le 21 e 59 minuti. Spot. Commerciante di Spinea, Confcommercio del Milanese, Comune di Spinea, Proloco Chioggia e Associazione Italiana Celiachia vi invitano a gustare un mare di pesce! Dall'11 al 13 giugno il Villaggio del Pescatore, la festa dedicata al pesce e alla sua cultura nella migliore tradizione chioggiotta. Tutte le sere stand gastronomici, musica, spettacoli e pesce a volontà. Il Villaggio del Pescatore, dall'11 al 13 giugno, Villaggio dei Fiori, Spinea. www.ascommirano.it. Blu Radio, il Veneto come non l'hai mai sentito. Blu Radio Sera. About 17, I listened in the navy for the sub the queen. I listened in the navy, I saw her understand for the head that kind of rattling. And music so grand, and music so grand, and music so grand for the head that kind of rattling. And music so grand. For the officer and the listen me with all an handsome man. We said you weak my cellar, so come along my man. My waist begin to slender, my fingers long by thin. As the verse are in the rhythm, I soon exceed in ten. As the verse are in the rhythm, I soon exceed in ten. Well, saint him into bed, all saint him into bank. To lay there with a sailor, I never was vibrate. By taking in my bold acoustic, she even owns my smile. For the hang of in a cellar, I'll marry home the while. And marry all the while, I'll marry home the while. For the thing I wing a cellar, I'll marry home the while. The tower, I'm sure I might back there, I will be ready right an hour. But the lady feeling love me, I told the woes of me. She went to the captain, my second she betrayed. My second she betrayed, my second she betrayed. She went to the captain, my second she betrayed. Well, captain, you come to be the next and wise old. I dare not, I dare not, I dare not, I know. It's the picture we should lose, such a sailor on your mate. It's the picture we should lose, such hands on your mate. Say hands on your mate, hi hands on your mate. It's the picture we should lose, such hands on your mate. So farewell, you captain, you can do it to me. I'm like I weigh my ship by maze, by sorry bar with tree. I've never wondered ladies, I lay the same your name. Put a can in my fuzzling, I run the ring again. Why I run the ring again? I run the ring again. Well, put a can in my fuzzling, I run the ring again. I run the ring again. I run the ring again. Well, put a can in my fuzzling, I run the ring again. Radio Sera. Blu Radio Sera. E su Blu Radio Sera, all'interno della programmazione serale di Blu Radio Veneto, abbiamo i Polver Folk. Maurizio. Eccoci qua. Ho letto nelle cronache, non so con chi sto parlando adesso, sei Augusto? Sono sempre? Ancora, no, sono ancora Dario. Ma sei Dario. Che c'è una, proprio una dimmi. Che dicono, lo passano sempre a me il telefono, ma tu dimmi con chi vuoi parlare. No, per me va benissimo. C'è una spiegazione, cioè prima voi eseguite il brano, ma spiegate, date emozione al pubblico che vi segue, sì, così Dario? Sì, prima Augusto citava le mie spiegazioni. Esattamente, volevo proprio arrivare a quello. Volevo arrivare a quello, certo. Diciamo che io non ho una grande dimestichezza con la lingua e quindi nelle spiegazioni, nelle traduzioni devo ricordarmi, capito? Perché leggendo non riesco a tradurre, certo. Quindi mi devo ricordare. Poi sai, come nelle tradizioni, nelle canzoni popolari, a furia di riportare di volta in volta si aggiunge, si toglie, si mette, si fa, e così è una tradizione popolare anche quella. Quindi ogni tanto mi escono certe citazioni o certi esempi che magari c'entrano poco con la canzone, ma il pubblico piacciono, insomma, quindi via andare. Quindi invento un po', ecco, via. Ecco, ma un bel inventare, Dario. Non dovrei neanche dirlo, ma tanto in radio non mi vede nessuno, quindi posso. Dovrei dire anche una cosa: una volta mi è capitato con una canzone nuova, durante un concerto, che la pagina del leggio si era girata, no? E questo lo dico, stanno ridendo tutti qua perché si ricordano che sai, in 30 anni ne sono successi. Ma si è girata la pagina e partono gli altri con la canzone, e io ho cantato su una melodia un altro testo, capito? E quindi tutti alla fine mi hanno detto: ma come fai? Come hai fatto a cantare questa canzone? Dico, ho inventato, ce l'ho fatta star dentro, però è bene anche. Scena fantoziana. Sì, sì, ma però ce ne siamo accorti solo noi, in realtà il pubblico batteva, giocava con le mani. Senti, aspetta un attimo perché qui siamo in casa e mi stanno chiamando. Posso passarti Duilio nel frattempo? Certamente. Ciao. Ciao, sono Duilio. Ciao, ecco, lo spostamento in diretta, tutto in diretta. Sì. Tutto in diretta. E a proposito del pubblico, sicuramente ci sarà il pubblico che conosce i vostri pezzi. Vi invita a suonarne qualcuno di particolare oppure no? Ma capita molto spesso che ci chiedono un brano che noi facciamo veramente molto poco, e qui c'è Augusto che effettivamente mi tira sempre le orecchie, perché la gente chiede Bobby Sands. Sì. è una canzone che ho scritto io tanti anni fa su questo personaggio irlandese, e è un nostro marchio di fabbrica, diciamolo così, ci conoscono molto per quella canzone e noi la facciamo veramente molto poco, ecco. Ho capito. Però quando la facciamo c'è la gente che canta. Che canta tutti quanti. Le tournée partite da dove provenite? Andate, non so, in tutta Italia o solamente in zone particolari? No, noi siamo disponibili a girare in tutta Italia, non abbiamo problemi. L'anno scorso abbiamo fatto anche Salerno, Campobasso, cioè abbiamo fatto proprio la zona del sud. Bellissimo. Che è una zona abbastanza difficile, diciamo, da esplorare con questo tipo di musica, però ci hanno accorto molto bene. Soprattutto a Salerno è stato un concerto veramente bellissimo, in piazza, con migliaia di persone, è stato veramente molto bello. Qualcuno ha scritto, non so se sei d'accordo, sempre tra virgolette, che qualche volta il vostro folk è un folk bastardo nel senso del termine musicale, perché qualche volta odora di qualche misura mediterranea. Assolutamente, e sono orgoglioso di quello che è stato scritto. Perfetto. È vero. Cioè, è un nostro modo di vedere, cioè noi non siamo irlandesi, non siamo scozzesi, non siamo bretoni, e facciamo un tipo di musica che non è la nostra. Noi dobbiamo avere rispetto per loro, rispetto per questo tipo di musica, rispetto per questa gente. Poi la vediamo così, con il nostro essere mediterranei. Certo, qui, certo. Musica folk nord europea riveduta in salsa mediterranea. Certo. Una cosa decisamente positiva, perché certo, bisogna allargare l'azione, secondo me, bisogna creare, sviluppare, costruire sempre delle novità. È vero. Una cosa fondamentale. Qui per quello si va avanti 30 anni e via, no? Cosa dici? Sì, ormai sono 34. 34, una cosa meravigliosa secondo me. Sì. Parlavamo prima dal Parco Lambro al 2010, tanta acqua sono passate sotto i ponti, ma c'è lo spirito, la voglia di andare, di creare, di costruire, di far emozionare la gente, quello è importante secondo me. Ma sai, io e Dario abbiamo cominciato 34 anni fa, tra virgolette per scherzo, perché noi veniamo, tra virgolette, dall'oratorio, dove ci si incontrava, io suonavo la chitarra, lui cantava, c'era un altro nostro amico che anche lui suonava la chitarra, messi insieme eravamo in tre. E tre voci, due chitarre, e così abbiamo cominciato tra virgolette per scherzo, ecco, non era irlandese per il genere, assolutamente, certo, però avevamo, poi a un certo punto, quando abbiamo visto che le cose andavano avanti, sono cominciati a derivare i sogni erano di poter portare un po' in un domani la Polver Folk ad avere i nostri figli al posto nostro. Certo. Non ci siamo riusciti, io in parte ci sono riuscito perché nel gruppo c'è mio nipote, per cui il mio contributo l'ho portato, insomma. Questa è una cosa molto positiva, beh. Sì. Assolutamente. 6 album durante, però avete cominciato a incidere solo dal 1993, mi pare, vero? È così? Sì, perché a noi non è che interessava molto né incidere, né forse perché avevamo paura anche a legarci a un mondo che non ci apparteneva, nel senso che vedevamo queste case discografiche, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo sempre rifiutato le offerte che ci facevano. Poi nel 93, dopo un periodo molto travagliato, con delle grosse beghe interne, di amicizia tra l'altro, e abbiamo detto: ma perché non lasciare una specie di ricordo, una cartolina, così almeno la gente ci ricorda. Ed è cominciato appunto questo album che si chiamava Polver Folk, con un piccolo promo che si chiamava Noi con le nostre forze, sì, proprio sì. Per dire, cioè, noi lo facciamo coi nostri mezzi, come ti diceva prima Dario. E poi da lì invece siamo andati avanti fino a questo album, arrivato dopo un silenzio abbastanza lungo, perché abbiamo deciso proprio di prenderci questi spazi. Ma no, fortunatamente non è stata una cartolina, un ricordo. Un ricordo, guarda, non dico, è un ricordo, è una realtà assoluta. Io ti dico che quando sono uscite le prime recensioni, soprattutto Buscadero, che è uno dei giornali più importanti di musica, l'aveva definito album folk dell'anno. Sì, è vero, letto. Porca miseria, insomma, io personalmente sono sbiancato, perché non pensavo assolutamente a una cosa di questo genere. A proposito di, voi siete di quella banda di Gallarate, mi pare, vicino Milano, Varese? Quelle sì, bande là? Gallarate, provincia di Varese. Vicino a Varese, quindi, da Varese un gruppo folk tra virgolette al 360 gradi è una cosa molto positiva, secondo me, decisamente positiva. Sì. Avete esplorato, avete continuato ad esplorare, esplorate ancora adesso con Sunflowers 2010. Assolutamente. Come ti diceva Augusto, adesso sai, per fortuna c'è internet, per cui sì, esatto, con internet riusciamo ad andare a cercare cose che veramente sono andate perse. Invece quando abbiamo cominciato con il primo Polver Folk, ancora prima, come diceva Dario, abbiamo dovuto andare là, quindi girare nelle varie Fesnos, per quanto riguarda me Fesnos, perché io sono innamorato della Bretagna, certo. Per quanto riguarda Dario e gli altri, sono andati in Irlanda invece, per cui insomma sono andati a cercare proprio i vecchi, a sentire la gente cosa cantava. È stato molto bello. È stato emozionante sicuramente. E adesso io ho scelto la traccia numero 6, è Donkey Riding. Donkey Riding, che sì, è la canzone. Cosa ne dici di questa traccia, questo pezzo? Allora, Donkey Riding è un pezzo, allora, mi viene da ridere perché dal vivo non viene cantato da me, ma viene cantato da Dario e da Lila. Sì. Questo Donkey Riding l'abbiamo fatto quasi per scherzo, anche lì io e Lila, quando ci siamo sposati, abbiamo fatto come bomboniera un piccolo CD di 6 pezzi, cantati da noi. Due erano scritti da Lila, due erano dei tradizionali irlandesi e due erano dei tradizionali bretoni. E io ho scelto Donkey Riding proprio perché mi piaceva tantissimo. E Augusto ha voluto recuperarla da questa bomboniera, da questa chicca, sì, e l'ha voluto riproporre. Nonostante la parola donkey, che, sì, che vuol dire asino, e che, come sentivi prima, Dario traduce alla sua maniera, il donkey riding non è la cavalcata del ciuo, non è la cavalcata dell'asino, ma è una specie di argano che c'è sulle navi, che serve per caricare le merci, e questo è il donkey riding. Perfetto, è un ossi shanti questo. Perfetto, adesso la sentiamo assieme allora. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Was you ever in Quebec, lunch it timber on the deck? Was you break your bloody neck riding on a donkey? Way hang away we go, donkey riding, way hang away we go, riding on a donkey. Was you ever in Capon, while the weather's never won? You wishing God in the bin bar, riding on a donkey. Way hey, away we go, donkey riding, way hey, away we go, riding on a donkey. Was you ever in Mobley Bay, screwing cotton all the day, dollar day is Paddy Spay, riding on a donkey. Way hey, away we go, donkey riding, way hey, away we go, riding on a donkey. Was you having Miramichi, where you lie up to the tree, and the girl sit on your knee, riding on a donkey. Way hey, away we go, donkey riding, way hey, away we go, riding on a donkey. Was you ever in Canton, while the men were picked along, and all moving Donkey Kong, riding on a donkey. Way hey, away we go, donkey riding, way hey, away we go, riding on a donkey. Where you ever in Bramilaw, where the youngs are all the go, and the boys done sailing tow, riding on a donkey. Way hey, away we go, donkey riding, way hey, away we go, riding on a donkey. Was you ever in London town, see the king, his dust come down, then the king in golden crown, riding on a donkey. Way hey, away we go, donkey riding, way hey, away we go, riding on a donkey. Was you ever in Liverpool Bay, see the Judy shoot the ray, comes in Tom in Bunny's Bay, riding on a donkey. Way hey, away we go, donkey riding, riding, way hey, and away we go, riding on a donkey. Way hey, and away we go, donkey riding, way hey, and away we go, riding on a donkey. Blu Radio, il Veneto come non l'hai mai sentito. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. In Blu Radio Sera abbiamo i nostri amici Polver Folk. Maurizio. Ecco, sì. Dunque, sei sempre Dario? No, Duilio, scusami. Sono Dario. Dario, perfetto. Io ho scelto questo pezzo perché è quasi tutto a cappella, con una lievissima percussione, penso, di Daniele. Sì, Daniele, che io adesso a questo punto te lo passerei. Ecco, esatto, così lo sentiamo un secondo. Speciale. Ecco, lui il nostro è più magro del gruppo. Ah, il più magro del gruppo. Ciao, sono Daniele. Ciao Daniele, sì, dicevo che con questo pezzo che è quasi tutto a cappella, alla fine c'è questa lieve delle percussioni, un movimento percussivo appena accennato. Sì, in realtà nel brano sono due percussioni differenti, c'è il boran che dà le frequenze, quelle più basse, che è il tipico tamburo irlandese, è un tamburo a cornice che si percuote con una piccola bacchetta di legno, e l'altra percussione sono le ossa, sono due costine di agnello che vengono percosse insieme e danno questa tipica sonorità molto acuta. Sì. che il suono dà questo sin di Ognello, ha detto, dà una sonorità particolare praticamente. Sì, sì, ha proprio questa questo battere di sì, questo ossa, battere, esatto. Esatto, che un po' forse è più semplice paragonarlo alle nacchere, certo, spagnole, come tipo di percussione, sono proprio due corpi che battono insieme. Daniele, che funzione hanno le percussioni e la musica della vostra band? Ma diciamo che le percussioni da noi vengono utilizzati quasi in ogni brano, partendo appunto da strumenti tradizionali come il boran, per quanto riguarda la musica irlandese, le ossa, come hai sentito, sì, certo, vengono utilizzati anche i cucchiai, proprio i semplici cucchiai, la minestra, esatto, per quanto riguarda i brani irlandesi. Per quanto riguarda invece i brani scozzesi, abbiamo lo snare, che è che è il classico rullante da parata, che accompagna le cornamusa, e ovviamente è un rullante un pochettino diverso da quello che si vede in una batteria, perché deve ovviamente farsi sentire di fianco a una cornamusa, quindi il volume è enormemente più alto, fino ad arrivare a delle percussioni un po' più atipiche per questa musica, come lo djembé e i caon, che avete sentito nel brano prima cantato da Lila di Lowland of Holland, certo, c'è appunto questo caon in sottofondo. Tu curi anche le coreografie di danza irlandese. Sì, sì, esatto, appunto l'altra percussione che viene inserita nei brani, appunto la danza, perché a tutti gli effetti con le scarpe da heavy, quindi con delle tipiche scarpe che hanno il tacco e la punta in resina, danno un suono particolare, quindi si utilizzano anche per accompagnamento musicale e ovviamente questo per l'ascolto. Per il pubblico, quando ci vede i concerti, ovviamente c'è anche tutta la parte coreografica. Ci ha detto certe cose che siamo restate a bocca aperta, io e Sergio. Più che altro io, dopo aver sentito il pezzo di poco fa, Donkey Riding, mi chiedo, ma cosa ci fate ancora a Gallarate? Meritereste veramente di collaborare, ma anche con un Mike Oldfield, secondo me, nelle sue venature più irlandese, più folk, anzi. Sì, diciamo che abbiamo sicuramente, è tanta la passione che ci unisce a questa musica e questa la trasmettiamo ovviamente al pubblico, e quindi si sente la nostra passione, quindi poi le collaborazioni con gruppi molto molto più grandi e famosi di noi arriveranno, forse. Ve lo auguro, decisamente. Anche se dopo tanti anni, però insomma. Diciamo che nel nostro piccolo, una piccola sorpresa che vi diamo adesso, l'abbiamo annunciata giusto 2 giorni fa sul nostro sito, il prossimo 5 luglio a Varese, ai Giardini Estensi, ci sarà un gruppo, uno dei più famosi gruppi d'Irlanda, i Lunasa, è forse il gruppo più famoso d'Irlanda, nonché uno dei più bravi, suoneranno a Varese e hanno chiamato noi per fare il gruppo d'apertura. Bellissimo, una cosa bellissima. Quindi un aggiungimento di una... Dopo 34 anni, esatto. Esatto. Visto che ci siamo. L'abbiamo raggiunta, sì. La Daniele, visto che ci sei, Daniele, puoi ricordare il tuo sito, eccetera? Allora, il sito della Polver Folk è molto semplice, perché è www.polverfolk.it, e da lì potete trovare tutte le varie notizie, iscrivervi alla newsletter e quindi... Comprare anche il disco? Comprare il disco, assolutamente, in maniera semplicissima, perché basta... Basta una mail e il disco arriva a casa. Certo, certo. E, ovviamente anche, anche perché ci hanno contattato anche dalla Bretagna per avere il disco, quindi non solo gli italiani lo prendono, quindi visto che adesso siamo in radio, quindi potrebbe essere e ascoltata in internet, ovviamente certo. Possiamo arrivare un po'. Noi abbiamo deciso di concludere con un pezzo che mi ha fatto impazzire nel senso positivo del termine, l'ho trasmesso per un mese consecutivo. Sì. Mac Persons Lament, che è bellissimo, secondo me, è bellissimo. Sì. Proprio preso tecnicamente, l'ho sentito un sacco di volte, l'abbiamo trasmesso nel programma nostro, si chiama Non Solo Acustico, per un mese consecutivo. In effetti è un brano molto particolare, molto di atmosfera, e qui interviene appunto lo strumento tipico che è appunto la cornamusa. Se vuoi scambiare due parole con esattamente con Roberto, con colui che suona appunto la nostra la cornamusa, te lo passo, grazie. Ciao. Pronto? L'ingegnere scozzese, allora. Il piping engineer. Ciao Roberto. Ciao. Allora, dimmi, qual è stata l'idea di inserire in questo pezzo meraviglioso la cornamusa? Come mai scrivo in questo pezzo? Parlavo di Mac Persons Lament. Ma in questo caso, c'è questo personaggio scozzese che si avvia alla morte con la consueta allegria della maggior parte delle ballate scozzesi, è famoso per aver composto il suo lamento funebre, certo, sì, prima dell'esecuzione, quindi lui l'ha suonato col violino perché era famoso per essere un bravo violinista, però insomma accompagnare una situazione così di quel genere, esatto, emozionante con la cornamusa sembrava adatto questo. Difatti è un pezzo bellissimo. Come avevamo detto prima in apertura di trasmissione, la cornamusa è molto importante, è fondamentale per l'emozione, esattamente, per il pubblico quando vi vede, vi sente. Sì, direi che è una cosa che non lascia mezzi sentimenti, c'è chi la ama sviscratamente, chi ci piange sopra e chi la odia con tutto il cuore e non ne sopporta il suono. Tu pensa che ho trovato una citazione di Giacomo Leopardi dello Zibaldone che l'ho forzato un po' perché non è detto che l'avesse scritta pensando a questo strumento, però mi sembra adatto, e dice: tra gli umani alcune nazioni si dilettano di suoni tutti diversi da nostri e per noi insopportabili, per dire che è proprio uno strumento senza mezzi termini, si impone, quindi chi lo ama se ne fa incantare, però chi non lo sopporta proprio lo sopporta proprio malamente. Certamente. Ok, abbiamo finito, mi dispiace, però la nostra ora è terminata. È stata è giunta la nostra ora. Musicalmente parlando, è terminata. Grazie ovviamente dell'occasione. Grazie a voi, siete stati gentilissimi, vi siete riuniti in casa di Duilio, mi pare. Avete fatto una cosa bellissima, abbiamo parlato di questa produzione veramente di grande valore e, come ha detto giustamente Sergio, perché siete solo a Gallarate e non andate più oltre? Come, siamo anche andati all'estero, perfetto. Speriamo che continui. Certo, okay. Saluti da tutta la banda, allora, grazie ancora. Grazie a voi. Erano i Polver Folk su Blu Radio Veneto. Maurizio, ascoltiamo allora questa traccia numero 7 del loro disco Sunflowers. Sì, poi diamo la parola e la musica a Renato con Rock Wave. Quindi salutiamo qui. E salutiamo qui, io ringrazio Alberto Prisco che ha curato la trasmissione nel senso positivo, cioè è riuscito a mettersi d'accordo con i Polver Folk per l'intervista, il nostro curatore artistico, quindi è una cosa fondamentale. Io ringrazio te che hai sopportato un'ora delle mie parole, ma sono state piacevolmente, ovviamente, però positive nel senso. Io imparo musicale, sempre tante cose da te. Ok, grazie a tutti e domani ci sentiamo un'altra volta, c'è Robby Zonka, il bluesman, totalmente in diretta dalle 22 alle 24 nei nostri studi, come ogni certamente mercoledì sera. Grazie a tutti e buona sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Farewell, you done just a hand and strung the bridge I just seen me. MacPherson, the life, well, now I belong, you wonder gallows free. See, run to Lee, see, one to Lee, see, done to Lee, gay. He plays a tune at dance a room below the gallows tree. Oh, why is that a barking bread? Hot money, the blood playing. I've seen your face hanging in this place. I'm scaring him yet again. See, one to Lee, see, one to Lee, see, done to Lee again. He play a tune and dance a room below the gallows tree. I live a life of cry and the strife. I die but treachery. But the bricks, my heart, I must see the bird. I be brave advantage. Gay, take my bonds from home, my hands, and bring to me my sword. And there's no a man in no Scotland but the brave MacKim's word. So far will light and sunshine a bright unfold beneath the sky. My coward shame, this deed name for the breach that never no die. See, run to Lee, see, run to Lee, see, done to Lee, he play a tune and dance a room below the gallows tree. See, run to Lee, see, one to Lee, see, done.